prendere spesa. Però volevo solo dire una cosa. Il concerto di stasera è tutto registrato e verrà messo in onda sul sito di Radio Onda Rossa. Facciamo un applauso a questa radio indipendente che si sbatte e che tira avanti anche grazie a tutti i miei gruppi. La prossima si intitola Quello che non cerco. Let's go! Questa era Food Audio. La prossima, sempre del nostro disco, una ballad che si intitola La fine dei tuoi giorni. Let's go. Allora, bravi però, così è, Dio. La prossima invece è tratta da un film. Ora, quasi, siamo quasi di epicità e a quei livelli. Questa è Terminator. Che finalmente, da quanto ho capito, sono quasi liberi, se ho sentito bene prima, quasi. Allora, questo è per loro e si intitola Democrazia Brutale. We'll be right back. Allora, la prossima è sempre un lentone. Questa, vabbè, è per dire, si dedica al cristaccio maledetto, perché qui va tutto bene. Grazie a chi ci ha prestato la chitarra, che non lo vedo più. Vabbè, ci vedo un cazzo. La prossima è un pezzo nuovo, è sentito la pioggia. Yeah. a te. Allora, la prossima invece è per una cover. Questa è tratta da un film degli anni 70 e si intitola Roma a mano armata. We'll be right back. Si dovrebbe anche fare.